Poi un giorno papà disse che la primavera era in arrivo. Nei grandi boschi la neve cominciava a sciogliersi. Pezzi e mucchi ne cadevano dai rami degli alberi e facevano dei piccoli buchi nelle montagnette di neve soffice sotto. A mezzogiorno tutti i grossi ghiaccioli appesi lungo le gronde della piccola casa tremolavano e scintillavano al sole e gocce d'acqua restavano appese alle punte. Papà disse che doveva andare in città per vendere le pellicce degli animali selvatici che aveva appeso in trappola durante tutto l'inverno. Così una sera ne fece un gran mucchio. C'erano tante pelli che quando furono legate e strette insieme formarono un mucchio grande quasi quanto lui. Una mattina, molto presto, papà si legò il mucchio di pellicce sulle spalle e si avviò verso la città. C'erano tante pellicce da portare che non poté prendere con sé il fucile. La mamma aveva paura, ma il babbo disse che mettendosi in cammino prima del levar del sole e camminando alla svelta per tutto il giorno poteva essere di ritorno a casa prima del buio. La città più vicina era piuttosto lontana. Laura e Mary non avevano mai visto una città. Non avevano mai visto un negozio, non avevano nemmeno mai visto due case costruite vicine. Ma sapevano che in una città c'erano molte case e un negozio pieno di dolci e tessuti e altre cose meravigliose, polveri, cartucce, sali, zucchero colorato. Sapevano anche che papà avrebbe venduto le sue pellicce al proprietario del negozio in cambio di meravigliose cose di città e per tutto il giorno attesero i regali che avrebbe portato a casa. Quando il sole affondò oltre le cime degli alberi e non caddero più gocce dai ghiaccioli delle gronde, incominciarono a spiare ansiosamente l'arrivo di papà. Il sole non si vedeva più, i boschi si fecero scuri e lui non era ancora tornato. La mamma cominciò a preparare la cena e apparecchiò la tavola, ma lui non arrivava. Al momento di sbrigare le faccende del bestiame, lui non era ancora a casa. La mamma disse che Laura doveva accompagnarla mentre lei mungeva la mucca. Laura poteva reggere la lanterna, così Laura indossò il cappotto e la mamma glielo abbottonò. Poi la bambina infilò le mani nei guanti di lana rossa che pendevano da una cordicella rossa attorno al colletto, mentre la mamma accendeva il lume. Laura era orgogliosa di aiutare la mamma nella mungitura e resse la lanterna con molta attenzione. Le pareti della lanterna erano di latta, con degli spazi intagliati perché la luce ci splendesse attraverso. Quando Laura si incamminò dietro alla mamma, sul sentiero verso la stalla, i piccoli frammenti di luce brillarono tutti intorno sulla neve. La notte non era ancora molto buia, i boschi erano neri, ma c'era una luce grigia sul sentiero innevato. E nel cielo c'erano alcune pallide stelle, che però non mandavano una luce calda e brillante come quella della lanterna. La bambina si stupì, vedendo la sagoma scura di Saki, la vacca bruna, lì fuori davanti alla porta della stalla. E anche la mamma era sorpresa. La primavera era ancora troppo precoce perché Saki potesse essere lasciata fuori nei grandi boschi a brucare l'erba. Doveva stare nella stalla. Ma talvolta, nei giorni più tiepidi, papà lasciava la porta della sua stalla aperta di modo che lei potesse uscire nel recinto. E ora la mamma e Laura la videro dietro lo steccato che le aspettava. La mamma arrivò al cancelletto e vi si spinse contro per aprirlo, ma non lo poté aprire più di tanto perché Saki vi stava appoggiata contro. «Saki, spostati!» esclamò la mamma sporgendosi oltre la palizzata e dando una pacca sulla schiena di Saki. Proprio allora un po' della luce della lanterna fu proiettata oltre i pali della staccionata e Laura vide una lunga sagoma irsuta, una pelliccia nera e due occhi scintillanti. Saki aveva invece un pelo fulvo, corto e occhi tondi, gentili. La mamma disse: Laura, torna a casa, presto! Così Laura si voltò e si incamminò verso casa. La mamma le venne dietro. Quando furono a metà strada, la prese in braccio, lanterna al tutto, e corse. Corse con lei fin dentro casa e sbarrò la porta. Laura domandò: Mamma, era forse un orso? Sì, Laura, rispose lei, era un orso. Laura si mise a piangere, si strinse alla mamma e singhiozzò. Oh, si mangerà Saki? No, no, disse la mamma confortandola. Saki è al sicuro nella stalla. Pensa, Laura, a tutte quelle travi pesanti sulle pareti della stalla. E la porta è anch'essa pesante e solida, fatta apposta per tenere lontani gli orsi. No, no, l'orso non può entrare e divorare Sakei. Allora Laura si sentì meglio. Però avrebbe potuto farci male, no? Ma non ci ha fatto male. Tu sei stata una brava bambina, Laura, a fare esattamente come ti ho detto a farlo in fretta, senza chiedere perché. La mamma tremava e cominciò a ridere un poco. E pensare, aggiunse, che ho dato una pacca a un orso. Poi mise la cena sulla tavola per Laura e Mary. Il papà non era ancora arrivato e non arrivò. Laura e Mary furono svestite e recitarono le preghiere, infilandosi poi nei loro lettini. La mamma si sedette accanto alla lampada a rammendare una delle camicie del babbo. La casa sembrava fredda, immobile e strana senza di lui. Laura ascoltò il vento fischiare nei grandi boschi. Tutti intorno alla casa il vento girava piangendo come se si fosse perso nel buio e nel freddo là fuori. Sembrava spaventato. La mamma finì di rammendare la camicia. Laura la vide piegarla lentamente e con amore. La rassettò con le mani, poi fece una cosa che non aveva mai fatto prima. Andò alla porta e mise il laccio di cuoio sulla maniglia, di modo che nessuno potesse entrare dall'esterno. Avrebbe dovuto togliere il laccio per far entrare qualcuno. Poi prese Carrie, tutta molle e addormentata, e la tolse dal grande letto matrimoniale. Vide che Laura e Mary erano ancora sveglie e disse loro: "Su, dormite bambine, va tutto bene. Papà sarà qui domani mattina." Poi se ne andò di nuovo sulla sua sedia a dondolo e si sedette, dondolandosi dolcemente e tenendo la piccola Carrie fra le braccia. Rimaneva seduta ad aspettare papà e Laura e Mary volevano anche loro rimanere sveglie fino a che non fosse arrivato, ma alla fine si addormentarono. Al mattino il papà era lì. Aveva portato delle caramelle per Laura e Mary e due pezze di un bel tessuto di cotonina per fare ad ognuna di loro un vestito. Quella di Mary aveva un motivo azzurro porcellana su un fondo bianco e quella di Laura era rosso scuro con puntini bruno dorati. Anche la mamma ebbe una pezza di stoffa per farsi un vestito. Era marrone, con un gran disegno bianco tutti intorno. Erano tutti felici perché papà aveva ottenuto dei prezzi talmente buoni per le sue pellicce che si era potuto permettere di comprare loro dei regali così belli. Le orme del grande orso erano visibili tutti intorno alla stalla e c'erano i segni dei suoi artigli sulle pareti, ma Saki e i cavalli erano rimasti dentro al sicuro. Per tutto quel giorno il sole splendette, la neve si sciolse e piccoli rivoli d'acqua colarono dai ghiaccioli che si facevano sempre più piccoli. Prima che il sole fosse tramontato, le orme dell'orso erano diventate segni informi nella neve soffice e bagnata. Dopo cena, il babbo prese Laura e Mary sulle ginocchia e disse alle due bambine che aveva una nuova storia da raccontare. La storia di papà e dell'orso. Quando ieri mi recai in città con le pellicce, facevo fatica a camminare nella neve soffice. Mi ci volle molto ad arrivare in città e altri uomini con le loro pelli erano arrivati prima di me con le loro mercanzie. Il negoziante era occupato e io dovetti aspettare fino a quando lui poté dare un'occhiata alle mie pellicce. Poi dovemmo contrattare il prezzo di ognuna e quindi scegliere le cose che volevo prendere in cambio, cosicché era quasi il tramonto quando potei mettermi in cammino per tornare a casa. Cercai di fare in fretta, ma era difficile camminare. E io ero stanco. Non avevo fatto molta strada quando cadde la notte ed ero solo nei grandi boschi senza il mio fucile. C'erano ancora 6 miglia da fare a piedi e io continuavo ad andare avanti più presto che potevo. La notte si faceva sempre più buia e avrei proprio voluto avere il mio fucile accanto a me perché sapevo che alcuni orsi erano venuti fuori dalle loro tane. Avevo visto le loro orme quando mi ero recato in città al mattino. Gli orsi sono affamati e arrabbiati in questa stagione. Sapete bene che hanno dormito nelle loro tane per tutto l'inverno senza mangiare nulla e questo li rende famelici e rabbiosi quando si svegliano. Non volevo proprio incontrarne uno. Correvo quanto potevo nel buio e di quando in quando le stelle mi offrivano un poco di luce. Era ancora nero come la pece quando gli alberi erano fitti, ma negli spiazzi liberi riuscivo a vedere qualcosa. Scorgevo la strada innevata che proseguiva davanti a me e vedevo i boschi scuri che mi stavano intorno. Ero felice quando arrivavo in uno spiazzo aperto dove le stelle mi davano un po' di pallida luce. Ero sempre intento a scrutare come potevo alla ricerca di orsi. Cercavo di ascoltare i rumori che fanno quando avanzano incuranti fra le macchie. Poi mi trovai di nuovo in uno spiazzo e lì, proprio in mezzo alla mia strada, vidi un grande orso nero. Era in piedi, sulle zampe posteriori, e mi guardava. Potevo vedere i suoi occhi che brillavano. Potevo vedergli il muso. Vedevo persino una delle sue zampe alla luce delle stelle. I capelli mi si rizzarono sulla testa. Mi fermai e rimasi immobile. Anche l'orso non si mosse. Rimaneva lì a guardarmi. Io sapevo che non sarebbe servito a niente cercare di girargli intorno. Lui mi avrebbe seguito nel buio dei boschi dove ci avrebbe visto meglio di me. Non volevo combattere contro un orso affamato nel buio più nero. Oh, come mi mancava il mio fucile! Dovevo superare quell'orso per arrivare a casa. Pensai che se lo avessi spaventato, lui si sarebbe forse allontanato lasciandomi proseguire. Quindi respirai profondamente. E di colpo mi misi a urlare con tutte le mie forze, correndogli incontro e agitando le braccia. Lui non si mosse. Io non mi avvicinavo troppo, ve lo dico francamente. Mi fermai e rimasi a guardarlo e lui rimase a guardare me. Poi urlai di nuovo e lui rimaneva lì. Continuai a urlare, agitando le braccia, ma lui non si scostò di un passo. Beh. Se fossi scappato non mi sarebbe andata liscia. Comunque c'erano altri orsi nei boschi. Avrei potuto incontrarne uno in qualsiasi momento. Tanto valeva affrontare quello che avevo davanti. Inoltre stavo tornando a casa dalla mamma e da voi, bambine. Non sarei mai arrivato qui se mi fossi messo a scappare davanti a tutto ciò che avrebbe potuto spaventarmi nel bosco. Quindi mi decisi. Mi guardai in giro e trovai una gran bella mazza, un ramo solido e pesante che era caduto da un albero, spezzato dal peso della neve invernale. Lo sollevai con entrambe le mani e corsi dritto verso l'orso. Alzai la mazza con tutta la mia forza e la calai, bang, sulla sua testa. E lui era ancora lì, fermo, perché non era nient'altro che un grosso tronco d'albero bruciato e annerito. Lo avevo già visto passando per andare in città al mattino. Non era affatto un orso. Avevo solo immaginato che lo fosse, perché non avevo fatto altro che pensare per tutto il tempo agli orsi e avevo paura di incontrarne uno. «E sul serio non era un orso?» chiese Mary. «No, Mary, non lo era proprio. Avevo urlato e gridato e agitato le braccia solo nei grandi boschi cercando di spaventare un tronco d'albero.» Laura disse, «Però il nostro era veramente un orso, ma noi non abbiamo avuto paura perché credevamo che fosse Saki.» Il babbo non disse niente, ma la strinse di più accanto a sé. Oh, quell'orso avrebbe potuto mangiarsi la mamma e me in un solo boccone, disse Laura, stringendosi di più a lui. Ma la mamma gli è andata davanti e gli ha dato una pacca e lui non ha fatto assolutamente niente. Perché non ci ha fatto niente lui? Beh, suppongo che fosse troppo sorpreso per fare qualsiasi cosa, Laura, rispose il papà. Credo che si sia spaventato quando la lanterna gli ha illuminato gli occhi e quando la mamma gli ha dato una pacca, lui sapeva che lei non aveva paura. Beh, ma anche tu sei stato coraggioso, disse Laura. Anche se era solo un tronco d'albero, tu pensavi che fosse un orso. Lo avresti colpito sulla testa con la mazza, se lui fosse stato davvero un orso, vero? Sì, lo avrei colpito, dovevo proprio farlo. Poi la mamma disse che era tempo di andare a letto. Aiutò Laura e Mary a spogliarsi e ad abbottonarsi le camicie da notte. Le due bambine si inginocchiarono ai piedi dei loro letti e recitarono le preghiere. Ora mi corico per riposare. A Dio do l'anima da sorvegliare. Se dovessi morire prima di svegliarmi, prego il Signore di perdonarmi. La mamma baciò entrambe le figlie e rimboccò le coperte del letto. Le sorelline giacquero lì tranquille a guardare i capelli della mamma lisci e divisi in due parti, e le sue mani occupate a cucire alla luce della lampada. Il suo ago batteva contro il ditale, poi il filo passava soffice, swish, swish, attraverso il bel tessuto di cotone che il babbo aveva scambiato con le pellicce. Laura guardò verso il papà che stava lucidandosi gli stivali. I suoi baffi, i suoi capelli e la lunga barba bruna erano come di seta alla luce della lampada. E i colori della sua giacca, a scacchi, erano allegri. Lui fischiava, lieto, mentre lavorava. Era una notte tiepida. Il fuoco era diventato brace e il babbo non lo riattizzò. Tutti intorno alla piccola casa, nei grandi boschi, si udivano i rumori attutiti della neve che cadeva dagli alberi e dalle grondaie, proveniva il gocciolio dei ghiaccioli che si stavano sciogliendo. Ancora un poco e gli alberi avrebbero messo le foglie appena nate, tutte rosate e gialle e verde pallido. E ci sarebbero stati gli uccelli e i fiori selvatici nel bosco. Allora non ci sarebbero più state storie da raccontare di notte accanto al fuoco, ma per tutto il giorno Laura e Mary avrebbero corso e giocato fra gli alberi perché sarebbe stata primavera.